canale 10, c'è qualcuno? Ci sono io, buonasera signor Gianni. Ciao Nathalie, mi hai sentito anche a te da? Sì, vai. Ok, Giada. Dice non ne avvini, babida. Ha voglia di buttare il gran moppo. Nathalie. Sì, già una. Avanti già. Ehi, ho detto, stamattina ho chiamato al CUP. Solo a Nuoro e Auristano c'è il posto. Cazzo, dimmi tu. E a Sassari non c'è nessuno che faccia la risonanza magnetica al bacino. O la fanno le anche e basta. Divise, io prima uno e poi l'altro. Il bacino non lo fa nessuno. E a chi più manna deve essere la macchina? E adesso mi sono informato, per andare a Nuoro ci vogliono praticamente 180 euro più il fermo del mezzo, dopo un'ora stanno fermi per un'ora, poi dopo un'ora scatta di nuovo la cifra, capito? E ogni casino. Non è casino, no, e mi vuole un bene di là perché un'ora non ce la fai. Quindi loro calcolano dopo un'ora, se c'è il fermo del mezzo ti fanno pagare ancora. Perché in ambulanza vai? E come vado? Io non posso guidare con la tariffa. Signor Gasino. Avessi potuto guidare avrei guidato, ma non posso guidare con la gamba così, no. Mi fa male. Quando premo l'acceleratore e poi va a premere il freno, di colpo non ce la faccio alzare la gamba. No, è pericoloso. Ma che è il manubrio? Tu guidi e io accendo e metto le marce. Asso che buffona. E sono andato anche a pagamento, mi ho chiamato per andare a pagamento, ma non ce n'è che lo fanno al bacino solo. Andiamo. Ciao, buonasera, ti ascolto, sto facendo una cosa, tanto per culo come è la portante, però non vedo niente. Faccela portante. Sì, può farcela. Saluto, ciao. Ciao, grazie. Avanti, Nathalie. Andiamo. Ciao. Allora. Cazzo portante c'è sempre, per carità. A casa si sta sempre. Io sono sempre a casa, già. La sera solitamente sei da Marina. Solitamente, ma stasera, ieri, oggi, domani, dopodomani, dopodomani ancora. Babà. Io sto bene a casa, già. Vabbè, allora. No, te l'ho fatto perché sapevo le tue abitudini, quindi ho detto, di solito è lì. Sei benissimo che l'avevo staccato tutto. Kappa, e quindi non puoi fare nulla, non puoi parlare di nulla. Ma non mi interessa, non è che mi interessa. Ce l'ho qua, quando posso farlo, quando ci sono, riesco, pazienza. Io ho acceso così adesso, perché c'è alimentato l'acceso, ho girato l'accensione per accenderlo. On, off, avanti, cuoma, non balli. No, me ne vado in quel RT, con te non ci voglio parlare. Vai a mangiare un brodino di mammo. Vai e mangiatelo tu il brodino di mammo, vai, drogato. Produsa. E anch'io lo so, diglielo anche tu già. Ehi, così. Ah, c'era pure quel pedipola di Claudio. E allora, quell'altro lo stesso dà la benedizione e se ne va. Vabbè, adesso me ne vado pure io, che sto facendo cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, dai, ciao a tutti. Ma buffonendici. No, avviso, devo fare cosa, capito? Ci sentiamo alle prossime, dai. Va bene, ciao Nathalie, ci sentiamo, avanti lui. Ciao Nathalie, ciao, fuori per interno, mi accorgo. Ah, yeah. Invece andiamo a cambiare l'acqua agli olive, dai. L'acqua al lucello. Ehi, vai, se non si guasta. Ti fanno volli pure. Chi è là? Chi è avanti? Allora non avemmo, Sì, c'è, sempre la stessa storia. Frusci, portanti, perché ballati. Che tu fai entrare già? Se uno voglio fare due chiacchiere, te ne basta la gamba. Ma non mi interessa più niente, già, a me. Sono in 40 metri, non me la puoi finire. Comunque, Claudio era la batteria di quel microfono, ce l'avevo a 4 volts che l'ho misurata col test, non ci ho pensato prima. Ma no, infatti era questione di batteria. Cosa? Era questione di batteria. E allora, se ne era male di dire un dubbio, era a 4 volts invece che 9. Io avevo, perché la consuma così in fretta la batteria? No, claro, avevo messo la batteria di un altro microfono che c'avevo, che era fermo, e gli ho messo con la batteria, non ne avevo altre, e provvisoriamente ho detto, quando finisce metto questa, poi gliela compro nuova. Kappa, gliela va bene. Oh, sicura che non ha bisogno, ga. Insomma, non riesci più a punire in carreggiata, Duda. Andiamo a battere all'altra, sì. Ah, se non c'è un cavolo qua, non c'è niente, chiamato al cupo, non c'è posto, solo a Nuoro e Oristano. E per Oristano ci vogliono 200 euro per andare, per Nuoro 180, però se l'ambulanza dice sta ferma più di un'ora, scatta la tariffa nuova. Se tu vuoi andare in elicottero allora, ma forse diciamo, mia moglie non l'ha fatta vista, non l'ha vista lì. Per gli occhi lo trovavi anche a Sassari, dai, già ce n'è di oculisti a Sassari, quello lì non è, la visita che devo fare è particolare, al bacino, capito, perché neanche me li hanno fatte tutti e due, non c'ho niente, adesso me l'hanno fatto la colonna vertebrale, le due anche, adesso devono fare il bacino. Ma è un casino, ma c'è niente in fede, ho già appuntamenti a ottobre, aiuta io. Senta la tornata fuori. Cosa l'alimentatore? Cosa già, che non ho capito. Ho detto, non dipenderà dall'alimentatore. No, è l'MC50, è un microfono molto, molto particolare. Io ce l'ho, però non lo stavo usando, l'ho dato a Roberto usare. Fabrizio gli ha fatto un lavoretto per non fare questo rumore. Quello che l'ha trasformato in MC60. E gli ha fatto il circuito di preamplificazione, ma non lo fa più. Evidentemente sottoalimentato, non so, perché prende l'alimentazione dalla radio, capito? Però un microfono è stato degli anni 70-80 e quindi evidentemente è sottoalimentato, o sovralimentato, già ne gioco. Prese in mano Fabrizio e non l'ha più fatto. Flippa, c'è gli occhi. Come va questo 4.30? Sempre mitico, va bene. Va bene. Una garanzia sarà io, ragazzi, una garanzia. 10 anni già. Vabbè, ma se vanno bene. Magari qualche componente chiusurato, però salvano bene quelle radio. Non ho problemi a 4.40 là sicuramente. Ci vedi in questa, ti metti a piangere tu. Non ce n'è per nessuno. Non c'è già vuol dire la vetrina. Ma la vetrina, balomi. Tutto la vetrina. Tu la metti in vetrina e c'è cazzo. Ancora le 4.30 stanno facendo. Beh, ci posso credere, secondo chi lo aveva in mano l'ha trattato bene. Io le apparecchiature, tu lo sai benissimo, le mie sono lo stesso così, non c'hanno un graffio, niente, a meno che ti succeda un incidente, ti ingaggi in terra, ma sono cose che possono succedere, ma grazie a Dio le mie sono tutte quante senza un graffio, senza nulla, pulite, sempre spazzolate. Diceva Weber, la causa Spaviero, sempre, da sempre, da più di 10 anni a questa parte, quindi era già nuova quando l'ho presa, è sempre nuova, lucida, bella, pulita, ordinata. Ma un frontalino l'ho visto, vabbè, che se non ne parliamo, che se è come che si esce dalla fabbrica. Va bene, Natalino sta facendo cose, ho detto io ieri magari sarei rimasto, capito? Però non ne ho più voglia già di stare a... mi sono stufato. Vita, anche i bordanti, brielli, vendi, non lo so, me la fuori. Abbascio il volume, se non spengo, me la vado dall'altra parte, se avviene in cru. La cosa che non capisco è perché, già non c'è più nessuno a questa 27. Ah, la gente scappa, Claudio, perché come dici tu, rompere le scatole, quando stai facendo un discorso che ti mettono a portante, fanno queste cose, poi ti ribassa la gara. È normale che la gente non entra se poi vede che c'è questo ambiente. Il problema è che c'è un po' di gente che ce l'ha con la china. Se ho dovuto andare a rompere le balle all'aria, un po' a fusciare. Allora io mi alzo la mattina, 7:30, le 8, a volte anche le 9:30. Accendo tutte le radio, rimangono accese tutte, HF, VHF, UHF, tutto quello che c'è qua, anche il Galaxy accende, io per te l'ho sempre acceso, tutto. Ma che mi sia uno, quindi dice, nessuno sul canale 10, c'è qualcuno sul canale, forse Natalino, lo sento qualche volta, l'ho sentito qualche volta, ma l'altro è tutti. Guarda che ce ne mangiamo di cagliura. Magari uno lo fa anche per provare se è stazionario così, però se uno ti dice avanti rispondi, invece no, ti fa nervosire, stanno fischiando apposta per farti nervosire. Stazionario non posso provare anche così, schiaccio la portante, vediamo la stazionario. Ecco qua, commutato, stazionario, 1, rapporto 1, anzi, manco si muove. Watt, eccoli qua, 30 watt. Cioè, non c'è bisogno di fare. Se mi brucia il cazzo devi bruciare, e brucia delle balle. Picchi di modulazione. I picchi di rigore che vanno in capo. Io a volte non faccio, però se mi dicono avanti io entro, capito? Non è che sto 3 ore fischiando e poi non entro. Quello lì è che dà fastidio, capito? Io capito, però molti hanno questo vizio. Se uno accende la radio e voglia parlare, dice attenzione al canale 10, c'è qualcuno, c'è tu canale 10, niente. E bim bum bam, quelli dice avanti come dici tu e non riprendono, allora cosa già brucia e fa, poi c'è l'altro che è sempre in agguato, come te entra anche uno che vede un questo e ne lo lampa in terra, ma forte me, qua la portante è un bel forte, io sono dall'altra parte della città, quindi non so da che parte arriva il segnale, ma è un bel forte, 9:20, a volte 9:25, a volte anche 9:30. Come tu ben sai, Claudio, poi se da un'altra parte avere un grosso lineare è la stessa cosa. Lo so, una cosa semplice, non c'è un peso. conventi in Bagoscia. Per me l'importante è a me, a te, a Tizio, a Caio Cipriani. Ma diciamo per chi c'è qua. Sì, ma non è possibile. Ne abbiamo provato, se non posso cercarne uno con un riparatore. No, completamente, c'è questo. Vabbè, Luca, hai risolto il problema? No, c'è sempre questo cacchio di alternato. Cambia microfono. Adesso cambio radio, andiamo su. Corsa Tornecco. Non mi vedi più cara, ne manco di comprare nulla. Vai. Vai Paolino. Chi è costui? Chi vuoi che sia? Io, sempre io, Corsa Tornecco. Ma se c'è più forte che quella tapparicchi. È forte, c'è questo. Ma è forte. Peccato che si è messo lo smitter. Vabbè, ma mi interessa. Andiamo bene. Faccio le picchie molestie allucinanti. Ora. Andiamo bene. Ehi. Ehi, vabbè, io non ho gruppi di apparecchi, ne ho 2, 3, 4, 5, 6 apparecchi, cazzo che non li uso. Sto sempre con uno. Infatti. No, grazie, a me piace, quindi a volte già lo uso, faccio queste cose, ma tengo sempre acceso, se no io ho il capo. Ne ho 4 di capo più linea completa 140, poi c'ho la linea completa del 7920. 128 e 430 libero, venne radio, non è più gambo. Come libero, in vendita? No, in vendita, allora 430 me vendo blu, no, libero nel senso che è sopra il gas, non è in linea, capito? In linea ci sono gli altri, questo è sempre quello che uso di scorta, il 430. Luca Manigba, Luca Flipper. Sì, sta controllando questa massa. Provo lui a fare un cavetto esterno. E io avevo risolto con l'MC60 che mi fischiava, però non era alternata, fischiava. Se ho fatto il cavetto esterno, l'ho fatto passare dentro il filo del microfono e non si vedeva quasi nulla, si vedeva il pezzettino che usciva appena che andava dove c'era l'attacco del microfono, poi il resto non si vedeva nulla e andava bene. Non si usa più adesso quel sistema, lo usavamo tanti anni fa, adesso io in tutti gli MC60 c'ho il dolore di quelli a pinza che sono attaccati al cavetto del microfono, poi non si vede, non quello che va alla radio, quello che va al microfono sotto. Li ho comprati, me li ha mandati un tecnico quando mi ha mandato la radio che avevo riparato l'820H. Stavo parlando così, e me li ha mandati. Ma tu metti questi, che tu sei pur certo che non ti fischierà mai, e infatti vabbè, i miei non hanno mai fischiato, forse perché uso un piano di massa un po' diverso, non lo so, però glielo ho messi lo stesso, sono a chiudere, capito, li metti in mezzo al cavo, poi fai tic e lo chiudi, si possono anche togliere, sono a marionetta, si chiudono, mi assorbono tutto il rientro di RF, perché un rientro di RF che c'è non è niente di particolare, molto sensibile ai 60. Ehi, ma qua piano di massa è tutto quanto legno qua, che non può fare nessun tipo di interferenza, perché il legno non dà problemi. Fosse stato di ferro, di lamiera, roba del genere, sì. Ma c'è sempre una distanza particolare dalla radio, deve avere, a parte il piano di massa, non deve avere altre cose vicino, altre, capite? E quindi l'ho fatta quella, non per il piano, ma anch'io c'ho la base che ha fatto nostro Giulio, poi il piano lo stesso che aveva fatto lui, sollevato, sempre in un coso, un massello, bello duro. Davvero Giovanna Schibbiano, davvero Giovanna, sempre lucidi, sempre belli. Va bene. Quindi sta andando bene con questo cicafuso, sì. E a voglia. Quello che stavo dicendo, io perché c'avevo il microfono a fianco, capito? Ce l'avevo a fianco all'apparato, anche perché non c'era altro spazio da metterlo, quindi lo mettevo a fianco. Forse per quello, faceva rientro diretto per quello. Esatto, non si mette né a fianco né, né nulla, si mette davanti di lato, davanti di lato, capito? Quando si modula, mai a fianco alla radio perché sennò ti fa rientro. Tanto io provo di gradi a dove sa. E vabbè, lì ti puoi fare un due guide sotto, tipo per appoggiare la tastiera, no? Quando ti servono il microfono lo tiri fuori, ti appoggi il microfono a terra, nel caso ti riprendi un 60, un Kenwood, una guida da tirare fuori e appoggiarci il microfono solo, che non faccia molto peso, in modo che sia lontano dalla radio, per che non fischia, se no ti metti i toroidi. Già ci sono in vendita, non so se sei anche Fusarbo, non ho mai chiesto. Quello è un pazzo furioso. Non sai quanto sta prendendo la legge 58, mi servivano 20 metri, 10 lì, 20, 25 metri la legge 58 per un dipolo. Ma lo facevo 58 anziché, alla fine poi l'ho fatto col cavo elettrico da 2 metri addirittura che ci avevo già. Ma 1,50 al metro. Io mi ricordo l'anno scorso le 20.58 buttava il gas 30 centesimi, 40 centesimi a metro. Sono carucci, sono. Chieto carucci. Allucinante. Poi se volete andare a comprare il 213 a 5 euro, a 4 euro al metro. A 4 euro al metro ho comprato l'H1000 senza pagare manco trasporto. E loro fanno quei prezzi. E poi vabbè, il marito di Mazza, cavolo, l'altra volta gli ho detto dell'antenna, guarda che su internet costa 60 euro, e loro ce l'avevano 80, e Mazza mi ha detto vabbè te la faccio, no se costa 60 euro su internet gliela facciamo 80, perché ci sono anche le spese di spedizione, lui la paga 80 euro lo stesso. E Mazza ha detto vabbè, non ti preoccupare, già mi arrangio io, e me l'ha lasciata a 60, capito? Giù peso che avevi fatto, dice chi un peso è cazzo. Eia, lo fa e non sa fare niente in Kiwi, va. Kiwi si manca Antonello, sarà in barracca. Cosa? Lì Antonello è quello che sa tutto quanto. Anche l'anziana, quella che è morta, sapeva tutto, e non è la signora, sapeva tutto quanto. Ma lui non è molto addentrato nel ramo. Quello lavorava alla Telecom, ma non ho capito cosa facesse, e poi l'ho trovato lì. Sì, sarà in pensione. Ah, avete in pensione. Ci fa 50 anni e troppo in pensione. Che ne so. C'è gente, io non me lo spiego, ci sono colleghi che sono andati molto più giovani di me, sono andati in pensione, non riesco a spiegarmi come hanno fatto. C'era l'altro magazziniere che aveva due anni in meno di me, e è andato in pensione lo stesso. Già vuol dire che hanno fatto qualcosa in quella scelta. Io sono andato senza età e con un accordo da sindacato, non è che sono andato così, no. Io ufficialmente sono andato a gennaio di quest'anno in pensione. Pensione proprio. Quindi, ma tutti gli altri anni ho fatto un accordo aziendale, capito? Quindi ho accettato un tappello dello stipendio e non sono andato, mi sono fatto licenziare. No, io me ne sono andato, va bene, sono andato, ce l'avevo già quella di invalidità, la pensione, anche quando prendevo lo stipendio, tant'è vero che mi sono dovuto pagare 2000 euro di 730 perché ho superato il reddito. E niente, sono andato così, e poi adesso dal 1° di agosto sono in pensione di vecchiaia. Pensione di vecchiaia no, poi ci vogliono 67 anni. Avrai fatto, non so cosa hai fatto, ma pensione di vecchiaia si fa 67 anni. Come te lo devo spiegare? Chi è invalido ha 5 anni di scivolo, io ne ho 63 quasi di anni e ho 5 anni di scivolo e sono andato 5 anni prima. Ah, anche quello è un accordo. Lo scivolo mica deve andare era due vicino, perché c'è una cosa, c'è una patologia, quindi... No, io sono andato con la contributiva, però ho fatto, ripeto, per i primi 3 anni ho fatto una cosa dove è andato, se lei va via, noi gli diamo 80% della stipendia, più 13esima, 14esima, tutto per 3 anni. Ma gli ho fatto un giro di gronzi, ho detto va bene, andamos, e sono andato. Io avevo 1.100 euro di cose di pensione, quindi vabbè, che me lo faceva fare continuare, che l'ho messo male. C'avevo già uno stipendio con la pensione. Già lo so. Adesso non prendi quello, adesso ti fanno la differenza, ti fanno contributiva più quello e ti danno ciò che ti spetta. Adesso mi danno di più, per dire, il mese scorso ho preso per tutti i soldi, non lo so se c'erano anche arretrati. E gli arretrati ci sono, ma cazzo non si diverso a mio fratello, tu no, avete la stessa patologia, quindi è così. Lui il primo mese ha preso un bel po' di soldi, e poi invece si sono adeguati e praticamente fanno una differenza, capito? È così, va bene, no, io dal primo di gennaio prendo praticamente l'ultimo stipendio, contributi pieni, i vitrani invece prendono solo il 80%. Vabbè, comunque l'interessante è che sia tranquillo, là, su quello almeno, sono tranquillo, sul fatto della salute non tanto, perché con tutto questo casino che c'è della sanità è un casino, bisogna pagare troppo per avere una visita di cavolo, ci abbiamo cavolo, paghiamo la sanità per che cosa? Per nulla. La sanità è così purtroppo. Sanità è così, no, io per quello manco mi scende di gioco, buttarina, forse quello è il problema, perché c'è un sacco di altre cose anch'io, adesso io sto aspettando del, lo fa una vista per l'artrite, è un casino, sono tutti a dolori sempre, vabbè, pazienza, cosa vuoi che ti dica? Diciamo che la vecchiaia è carogna. E io non sono un po' ricordato, ma non lavoro più. La verità, mi lavoro in bolla piena, ma sono anche per prima, però mi sono accasciato troppo. Ma scusa, non facevo niente, un po' mi sono ripreso a me a fare da quando sono qua, però i primi 2 anni che ero a carbonati, li buro più, di vano letto, e buro. Vediamo, cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Io stavo lavorando con tuo cognato. Tuo cognato? Sì. Tu lo dicevi che stavi lavorando con tuo cognato, lavoravi in ufficio, boh, non lo so, che lavoravi con tuo cognato, un pedire. Ah, quando la fermò? Aspetta, che lo sta funzionando l'amplificatore qua. Ci pagava. Vabbè. Le cose cambiano, purtroppo la vita è questa, ci dobbiamo tenere tutti i dolori, tutte le acciacche che ci abbiamo. Ma quello già non è lavorato, già, boh, andare nei cantieri, stare, sto già a lavorare. Cioè ero impegnato, ma io sto facendo il lavoro fatto che facevo prima, allora sì. Allora sì, invece adesso niente, caput, a domo, hai precadinà. Beh, più che altro tu macinavi chilometri, non è che facessi chissà che cosa. Appunto, già venuta, chilometri, e vabbè, stavo anche in cantiere, c'avevo tutta l'anglo, Nero, Nurbi, Tergo, Burti, Siri, Matti e l'Aero. Poi dall'Aero ci andiamo, Perfuras, la Perfura tagliamo e facciamo Santa Maria Covina, Svaledori a Varesi, Isola Rossa, Isola Rossa a Porto, Paduletta, Maronetta, Vignola e torniamo indietro. Ma è nulla, no? Ma è nulla. Quello sì, quello già, anche il fatto dell'orario, che ritornavi tardi, a pranzo. Io a pranzo voto che entravo male. Ma ti scoppia il cervello, Gianni, ti scoppia il cervello. Io gli ultimi anni mi stava scoppiando il cervello, non capivo più niente, nulla. Avevo troppe, troppe, troppe responsabilità, troppe cose da fare, non ce la facevo più. Sono andato in tilt, dico la verità, sono andato in tilt, ma la mattina mi sono fatto le balle girate, sono andato a prendermi la macchina in ufficio a Sorso, sono sceso, sì, ero in moto, era l'estate, sì, era l'estate, giugno forse, sono andato in moto, ho parcheggiato la moto, sono andato nel quadretto a timbrare, mi ho preso a chiave la macchina, stavo andando a aprire la macchina e sono tornato indietro. Infatti c'era il mio capo settore, ha trovato i problemi. Sì, ho detto, mi sa che non ne voglio oggi. Aiuto, un Matti e Vala che stanno aspettando lì all'Isola Rossa, che c'è da vedere alcune cose, proprio la tua fantasy. Mi sa di no. Matti Vara, dottor, non va da nessuna parte, c'è che la chiavi la macchina. Ma sono a casa. Avanti, a casa ma è tornato. Io pensavo che fosse andato direttamente in pensione, capito? No, ma sono a casa. Segni ferie, dottor. Guarda che segni ferie. Poi l'indomani sono rientrato. Ho fatto le chiacchiere proprio con lui, ho detto no, vabbè, non sto scherzando, voglio andare via. Come facciamo? Voglio andare via. Fate come volete, voglio andare via. E mettiamoci d'accordo, voglio andare via. Mi faccio sentire commercialista a Cagliari, vediamo un po' cosa si può fare, ma è sicuro, voglio andare via. No, ho fatto una proposta abbastanza consistente, oltre la liquidazione, altre 30 sopra. Va bene, e in più un buon stipendio, insomma, anche se era l'80% comunque era abbastanza a carico, perché lo prendevo abbastanza bene, e così abbiamo fatto. Basta, ho aspettato tre anni per poter fare quota 41, capito, perché ne avevo 38 fatti i contributi, 39, 40 e 41. A gennaio del 2022 ho fatto quota 41, sono andato in pensione ufficiale. Vabbè. Tutto bene, ciò che finisce bene. Ma non di cazzardi! Vabbè, vecchione! Già, non è che te lo fate né tutti, no? A questi Marco Verro sembra perché c'hai i contributi ridotti, non hai niente, insomma, che in più di quello che ti spetta. E tu finalmente l'hai accesa questa radio, ma mi accoppi? Eia, una prova così, boh, allora ho tirato sulla leva, neanche accendeva, fatelo conto. Oh, accendilo, niente tanto, mi ha chiesto già andare a Saturno. Già, vabbè, ti passo Gianni, poi mi dici come stai, se tutto. Ti volevo chiamare stamattina perché mi sono ricordato che sei rientrato al lavoro, invece poi ho avuto altre cose a fare, mi sono dimenticato la verità, vai già. Ciao Massimi, e beh. Ciao Gian, buonasera, ben ascoltati, tocca e fuggi perché sta iniziando il Milan e vado a guardarmi la partita. Ah ecco, io già non le guardo partite, la mena facilità, ognuno ha il suo. Io già non ne ho voglia di guardarmi partita, me ne sono entrato qua per farmi quattro chiacchiere, anche perché sono più tugante a dolore, non riesco manco a muovere una gamba, quindi devo stare sdraiato e non posso fare niente. E a puttidini, muovi un braccio, le gambe lasciale ferme, lascia perdere il dolore, va. Vabbè, Claudio, tu com'è? Ditemi come sta andando la radio, che così spengo, se è tutto a posto. Ottimo per la truppa, Massimiliano, alla grande. Va bene, dai, del resto poi, solito da andare, poi magari ci sentiamo telefonicamente, ok? Ehi, Massia, guarda la smetta, tu sei lontano, c'è qualche faccio contatto qua, non mi... Guarda, Massimiliano, se da questo passaggio... Questo passaggio cambia qualcosa? Allora, sganciato fai, sì, di portate modulate 7, poi fai da 9 a 9,5, però prima mi arrivavi 9,10, adesso non so se sia la radio questa, comunque già c'è la differenza. E allora sta funzionando, no? Lo strumento che andando a faceva il culo, oppure c'è qualche fascio contatto da qualche parte, di qualche piede di merda, di questi piede di fusato. Va bene, no, tu stai arrivando bene, Massilia, non c'è problema. Segnale, non lo so perché sei fermo a Santiago 9, però già dovresti essere di più, avanti già. Ehi, Acla, guarda se si aggiusta lo smitter adesso. No, non si aggiusta, non ti muovi da 9, non c'è niente da fare. Qua c'è 9.30 già. Cappa, eia. Ah, no, volevo aggiustare lo smitter, la cosa, si è ballato d'oro. Aspetta, adesso voglio accendere proprio al volo l'S9 per vedere se è tutto a posto anche lì e poi vi saluto, da un secondo solo. Beh, cagame. Vabbè, cavo e bugnetta. Guarda un po' se è tutto a posto qua. Quindi tu lo fai muovere, tu da 9 vai a 9 più 10, invece Gianni no, vedi c'è un bel picchi di modulazione. Ok dai, guarda un po' così, se si muove un pochino di più. E la massa te ne varia. Va bene dai, allora c'è tutto a posto. Eia, vuoi un'offerta per quell'amplificatore, vorrei? No, no, questo non si muove da qua. Vabbè, ti volevo offrire 600 euro. No, no, negativo. Allora niente, allora le metto a posto. Sì, sì, tieni in tasca, tra, ti servono per la birra qui. Dalle a me, dai, non c'è problema, se proprio ti disturba. Hai detto quindi la macchina di nacca, decidi che ne dirà, lasciali a me, Gianni. Io quelli mi ribevo, non è che volevo investirli, a portarli via con l'amplificatore. Cazzo, te lo potrò portare via, ma non me lo stavi dando, no? Visto, vabbè, è perso il treno. Dai, saluto a Luca, io l'ho sentito di sfuggita. È stato bello, vi saluto, un abbraccio a tutti quanti, anche quelli che ascoltano. Ci sentiamo le prossime. Io passo e chiudo. Ciao, ciao. Ciao, Massimiliano. Ciao, Massimiliano. Ti volevo salutare col capo, col 430. Mi senti meglio? Sì, sì, tutto a posto, Claudio. Tutto regolare. Va bene, dai. Ciao, un abbraccio. Già ti chiamo per telefono. Ciao, Bulldozer. Mi ascolti, sì. Ciao Luca, sì, 9.10, Radio 5, perfetto, tutto gamma gamma. Ciao e ci sentiamo, ciao. Ehi, ciao Massimiliano, ciao, alla prossima, ciao. Avanti, ciao. Ehi, KK. E allora Luca, oggi non sei uscito nulla? Sì, sono andato giù in piazzetta a portare il cane, sì che sono uscito. Ho fatto una passeggiata, no? Certo che sono, ragazzi, è proprio stato di bici. No, è stato sicuro a Capacato, non ci andrò, ma non me la fatti. No, io stamattina non l'ho portato, l'ha portato Elena e io mi sono riposato un po' perché mi faceva male la gamba e quindi me l'ha portato lì giù. Ho capito. Ehi, vabbè, già, no, già sto uscendo, ieri non sono uscito a prendermi le pizzette, ho fatto una passeggiata lì all'emiciclo, già sono uscito. Già sono uscito. Ehi, vabbè, poi con questo caso un casino, poi sono anche a piedi adesso, già capito. Un casino. La macchina da primo metro non la posso permettere, però sto pensando di comprarmi un monopattino per spostarmi. Ah, pure tu. Guarda, ti stavo dicendo, io sono sceso l'altro giorno a Porto Torres che c'era il circo e gli ho detto a Marco, a mio figlio, io che andiamo a vedere il circo così facciamo qualche cosa di sabato. Elena non ci voleva venire, quindi ho detto a lui. E siamo andati al circo, no, mentre stavamo scendendo mi si accende la spia della macchina come se si fosse sgonfiata una gomma. E ho detto, cara Marco, cosa facciamo? La cambiamo subito oppure... E poi siamo fermati, ma non è tanto sgonfia, no, non è quasi niente, non è sgonfia. Vabbè, siamo andati al circo e ritornando Marco ha detto frega che non sia sgonfio, se no ci tocca cambiarla al buio, erano già le 11:30. cavolo, invece no, grazie a Dio la gomma non si era sgonfiata, è durata anche il giorno dopo. Sono andato al gommista, ammetto che non c'era nulla, che sicuramente qualche fosso che ho preso, e i sensori sono ben sensibili, come prendono il fosso magari leggono che la gomma si è abbassata troppo e quindi pensano che sia bucata. Sì. Dovrò andare a farmi un giro adesso, cioè non voglio prendere un monopattino di quelli, insomma voglio un po' per il mio peso che mi porti, cioè che non è che in salita se si caga, quello me ne faccio, non ne faccio niente. L'aggiuno di Regna. Cosa? L'aggiuno di Regna. No, di Regna no, io sono con Gaffo. Io c'ho quello fatto con i cuscinetti, bene ti va, con i cuscinetti di macchina. Ma io quello voglio elettrico. Beh, farà tanto a buviscio. Come te la fattrice è buona, così fai la centrifuga. No, no, adesso vediamo. Poi lo vedi su internet, uno che voglio io, cazzo cammina, Ma costa, ce n'è da 2.000, da 3.000 euro. Se non hai 3.000 euro ti danno, con un monopattino, su un macchino. Ma con l'assicurazione però, io metto un casco. No, un monopattino mi fido già, chiamava per spostarmi. Luca, ne stanno dicendo tante, fra poco ci vuole casco, ci vuole l'assicurazione per il monopattino, perché stanno succedendo troppi incidenti e vogliono praticamente riformare il codice della strada e mettere anche assicurazione, bollo e tutto quanto. Ma si è attaccato? Io? Sì, aspetta, è stato un bel, sì, è l'agganciato. Sto in un scimmialone che andrà avanti, che se più forse di già ne arrivi. Ma io sono staccato, c'ho 5 watt. No, 5 watt Luca è appena più alto. Esce 9,5 con 4 watt, lui è 9,10. Agganciato il gatto è 9,25, ragazzo 743. Va bene. Ma ho fatti di lasciate perdere perché penso che adesso con il nuovo governo facciano qualcosa, perché stanno succedendo troppi incidenti mortali pure. Mortali, perché se cade la manopattia di fuga batterà da matti. Quindi, perciò ci vorrà l'assicurazione, il casco obbligatorio ed è sempre una gagliata. Però c'è quell'affare che rimane in piedi di equilibrio, cazzo, con lui deve essere un bel pericoloso, se trovi un fosso ti si punta, se ci braccareggi. Già, l'abbiamo preso quando siamo andati a San Ferragosto, fuori con Ilaria, gli ho pegato le scampate con il manopatti, non mi reggio, cosa ha detto il manopatti. Sai perché non si è abituato, ma io sono andato in bicicletta, ho fatto tanto ciclismo, quindi l'equilibrio dovrei ancora averlo, se non è che mi ha fatto in duretta. Già, boh, quella cosa che si muove, camminando, boh, poi piccolina, che mettere i piedi, sta in equilibrio, cazzo, mi stessi della ciabatta, dove trovare la danca. Hai visto quella ragazza che ci ha cercato, poveraccia, por dottores, che è morta, caduta a cavallo. Amica mia nipote, lascia perdere, è una tragedia veramente, anche Laura c'ha il cavallo, anche mia nipote figlia di Antonello c'ha il cavallo, che cosa vuoi dire? Vabbè, abbastanza sicuro però vedi, non venuto anche dal cavallo si può cadere. Era caduto anche il mio principale, giusto, tutto gatto ingessato, ed era uno che aveva cavalli da corsa e che mi trattava i cavalli, eppure è caduto lo stesso, ho detto già, oramai gioco umano, non mi devo più andare a cavallo, ha gioco un briso. Ma questa non è colpa sua, è il cavallo che è scivolato lo zocco su una pietra e si è dato vuoto al cavallo, e lì la sbalzata è caduta, era sbattuta la testa, c'era il casco di tutta una professionista con la ragazza. Un sacco di medaglie, un sacco di cose, capite? Era veramente molto bravo, mi ha detto Laura, però purtroppo è così, cosa avete voi? È così, il problema è che c'ha un'età, cazzo, porca puttana. Qua io quel viso lì l'ho già visto, secondo me l'ho visto quando sono andato a fotografare che fanno quella specie di sartiglia a Porto Torres in via Lungomare, mutano la terra, non so se tu l'hai mai vista, e cercano di prendere il cerchietto con la spada, e mi sembra che l'ho vista io in quel contesto lì. ha detto anche violino, ha vinto la Santina di Polottore, ha vinto anche quella del, di Iglesias, molto brava quella ragazza era, c'è quella lì sì. Il viso non mi era nuovo, capito, oltre che assomiglia molto a una mia collega, proprio si assomiglia a un me, però lì di Sassari mi pare. Sì, sì, sì, sì, di Sassari, però appartiene al, a quel così piccolo club, non siamo, il club di Portogia, dove c'è anche mia nipote, ti ripeto, la figlia di mio fratello. Ma da Falchi, lì dove c'è il Maniccio? Sì, ho capito. E c'è anche una mia collega lì, Anna Maria, Umidi. Quella lì è la, la sorella di... come si chiamava quello lì? Adesso è a Sassa di lui. Ma non mi viene il nome, già, già te lo dico dopo. Una tragedia veramente. Una tragedia veramente. Porca puttana. Casino, eh. Se sei pratico, vabbè, ti diverti anche, ma chi non è pratico deve stare attento perché è un bel pericoloso su gozzo. Ma lui che fidiato, è un piccino bizzone. Piccino bizzone, è stato sempre così e quindi già non ha problemi per quello. Solo che bisogna stare molto attenti con quegli monopattini perché ti gazzigheggia. Sì, bisogna stare, ma poi passano su marciapiede, nelle... un casino, un indifietto, ti rivedi a Danazzi, altri giorni uno salendo via Roberto, c'è via Roberto, via, via Zanfarino, e stia scendendo e questo salendo, alla fine ha detto, ma certo, ti faccio la vicenda, ma mi ci guglione i voci, ehi cosa, e tu mi fanno di sacco un gabbo, imbecille, capito? E salgono a tutte le parti, ne escono così come se niente fosse. Sono azzardati, io l'ho visto sulla superstrada uno, capito? Sono azzardati, passano le macchine a manettone lì, lui col monopattino tranquillo, capito? Magari abitava qualche campagna vicino lì a Sant'Orso, la lì. Dio che c'è la secca nuda, c'è la secca grigio, se ne escono così, anche lì mi piace lo felice, altro giorno uno, lo stesso. La rotonda, l'italiano la rotonda al stesso contrario. E tu mi cammini in alto, mi tiro il pacco in capo, qui su ciclino che vai, manco risposto. Io una volta ne ho visto uno di monopattino fermo alle 6 di mattina, pensavo che fosse rubato, invece mi hanno detto poi che quando finiscono i soldi li mollano dove li capita e poi vanno in rottina. Ci sono satellitari così al di là fuori, o si scarica o finisce... finisce quello che hai e lo lasci dove, dove capita, cosa trovo che a casa, lo lasci lì, ce lo intercettano loro, c'hanno il coso satellitare, capito? Sanno dove è, dove non è, non, non ce n'è problema. Quindi se uno anda a furarlo lo vedo. Penso che non lo furi proprio, non ti conviene educarlo. Una volta ne ho visto uno vicino a casa della moda, ho chiamato a Luca, gli ho detto, oh lui c'è un monopattino qua a capo, con la luce ancora accesa, boh, o l'hanno rubato. E lui mi ha detto, e allora mi pare che va abbigliato, non ricorri lui. Ah, ma non li toccate, no, li sono, ti intercettano subito, c'hanno il satellitare che ti vedono, mamma qui, sono collegati su Google Maps ti vedono. C'è un circuito di controllo con quelle cose. Ui. Ma io non lo sapevo, cioè io da profano pensavo l'avessero buttato, roba così, capito? Che l'avessero abbandonato. E il figlio di Walter, Marco, ce li ha ad Alghero, ce li ha un po' in costa da tutte le parti, me l'ha spiegato lui. Ah, io seguo tutto, seguo lo vedo, ma non è chi lo sta usando, chi non lo sta usando, tutto tramite il telefonino, lo vedi, eh? Lo vedi dove è fermo, dove non è fermo, ma si vede tu proprio, me l'ha fatto vedere, guarda, adesso ne ho una, due, tre, quattro, cinque fermi, all'Alghero sono in via Lido, guarda, fermi, si vede il marciapiede, tutto, cazzo vai a toccarlo tu, che ti vedono in faccia. Eppure per questo si stavano lamentando, a Roma per dire Milano, queste grandi città, dice che, una... che lo mettono sul marciapiede, disturbano chi deve passare, eccetera, eccetera, che dovrebbero mettere in parcheggi autorizzati, eccetera, eccetera, perché così danno fastidio. Sì, li abbandonano, lasciano stare, una volta che è finito il credito, lo muore. ce l'ho presi, siamo carichi in macchina a caso. Manco 100 metri di fermare la battaglia dei carabinieri. E se dovessero avere qualche incidente col monopattino, come la metto? C'è una circolazione, chi te lo danno lì, c'è una circolazione il casco che se interviene in caso di incidente. Ah ecco, sono assicurati qui. Certo, la società è noleggio, sì, ma se te lo compri tu no, se te lo compri tu ti arrangi tu. Sarebbe quello poco ma sicuro. Luca! Via, sono qua già, sto controllando un attimino roba su internet. Sì, quelli c'hanno il GPS. Via, GPS sì, GPS satellitare. Ti vede, capito? Che te lo danno legge, ti segue, sa dove sei, con chi sei, 6x6x36, tutto sa. Una volta c'è un tipo che ha trovato uno, convinto che magari l'avevano rubato, sai, l'aveva trovato così. Poi ci sono questi che affittano, no? Questi che hanno il GPS. Cazzo, non si può smontare un GPS. Si è smontato per farlo partire, convinto lui faceva il collegamento e è partito. E poi tramite, tramite altre persone che hanno chiamato, quanto costa già il GPS? Intorno ai 300-400 euro. Fatti rubo. Infatti l'hanno minacciato che doveva pagarlo, solo picchiavano. Anche io sto andando molto male. È andato una volta a camminare. No, se li vedete non li toccate perché sono super controllati. Io i primi periodi che sono usciti queste cose, li vedevo e stavo, prima c'era un pareggio, giusto, poi li abbandonano. E invece poi mi hanno spiegato, si abbandona il cane. Finito il credito li lasciano lì, poi passa il furgone, che sa dove sono, li ha già intercettati, passa il furgone, li carica e li porta via. È così, io pensavo, quella volta che l'ho visto vicino al cassonetto, pensavo che fosse abbandonato, buttato via, ma c'era la luce accesa dietro, che strano, questo qui o l'hanno rubato, ho provato a farli, a muoverli, le alette che c'ha per accelerare e decelerare, ho provato a muoverle e non si muoveva, e te deve essere perché c'era il motorino rotto, invece ha finito il credito. Sì, non parte, non cammina, c'è finito il credito, la luce rossa serve proprio per intercettare il GPS, capito? Poi me l'ha spiegato una ragazza che porta il cane, quando finiscono il credito li abbandonano dove finiscono il credito, loro se ne vanno via e poi passano a ritirarsi lì col furgone. Sì, c'è un furgone che Marco già, il furgone è officina, diciamo, anche con tutte le i cambi batteria, le cose, capito? Tutto. No, è un lavoro che rende me, no? Sai che non rendi a me, quest'estate ti fai una barca di soldi per dire, ne prendi una cinquantina, li metti a noleggio tutta l'estate e ti fai la fila. Io non ho l'idea di quanto si paghi perché non ho mai affittato niente, però se ne hai una quantità normale che il guadagno ci sia. 8 euro ora Infatti Lugonto, Luca, ti conviene comprartelo allora. È da 5 a 8 euro ora. Lo sto dicendo. Qua vicino a casa c'è un uomo che c'ha di quelle piastre dove cammini sopra. Praticamente ti metti sopra, ti sporgi in avanti, ti sporgi indietro, ti porta indietro. Al lato ti muovi di lato, ti porta a destra e a sinistra. E l'ho fermato un giorno perché esce con le borse della spesa, va a comprare al supermercato ed esce con le borse della spesa in mano, tutte e due le mani occupate. Ed è all'equilibrio. Ho detto scusi, ma le volevo fare una domanda, ma è difficile da portare questa cosa? No, dice facilissimo, mi ha spiegato come fare, ti sporgi in avanti e vai in avanti, ti sporgi indietro e vai indietro e di lato la stessa cosa. E detto, lei ammetta che trova un fosso, ti si punta e non c'ha manco le mani libere perché c'ha le borse, non può mettere manco le mani intere. Lui dice, quello già è vero, ma devo stare attento. Già, bisogna stare attenti con quelle cose lì, no? Non si scherza, bisogna stare molto attenti, gappa. Quelli sono più pericolosi, è quello da stare in equilibrio in piedi. Oh, io mi lo occupo già subito, stavolta ho strampato anche con la mano, figurati con quello. Io una volta da ragazzo ho provato, infatti avevo due amiche che pattinavano non so se ti ricordi la palestra USAI tanto tempo fa, e loro patinavano, erano professionisti, vincevano gare eccetera, due gemelle, e praticamente un giorno ho chiesto di mettermi in questi pattini e mi hanno prestato i pattini, e come mi sono alzato dal marciapiede sono caduto a culo a terra. Marcello USAI, sì, lì faceva pattinare una mattina, vedevi piazzare i segni girando uno dietro l'altro, capito? Quando sono usciti i pattini a due ruote, prima erano a quattro ruote, poi erano fatti a due ruote, e anche lì, cioè, se sei bravo, va bene, se no te la prendi come le possa mano. Devi avere un equilibrio particolare, Bruno, con i pattini. Già, io avevo messo quella a quattro ruote su questa base, figurati a due ruote. Ci vuole sempre praticità, non devo fare. Però, ti ripeto, non ho pattino, io ho provato. Prima volta non c'era l'accello, poi cazzo, mi dico, poi c'era i movimenti, boom, boom, boom, e sono caduto a testa a terra. Sarebbe stata bella la cena, ma era pappiglissima. Infatti hanno arrivato un video, che basta avere gli amici di Dario. Capito? Quindi vabbè, non male, avevamo una zona dove non ci conosceva nessuno. Cosa rende la città in Piazza d'Italia? Ciu-ciu. Figuraccia. Ma ne vedo tanti anche in Piazza d'Italia che passano a razzo con questi monopattini, quelli che portano i fiori, sì. Tutta questa gente qua adesso stanno facendo le consegne anche con la bicicletta elettrica, la GLS. Sì, beh, quello vabbè, c'è un carrellino, vabbè, bicicletta elettrica, carrellino, ma per consegnare il centro storico, per fare in fretta, per non stare in mezzo al traffico, capito? Velocissimo, quello, ma fanno solo buste, fanno bustame. Anche a me mi hanno portato, vabbè, non sono soliti fino a casa, mi hanno chiamato, era lì via che l'ufficio, e ho detto, no, fermati da Sonia che sto arrivando. Non trovando Sonia per il microfono, me la vado. Però sono veloci, capito? Ma consegnavo buste, scatolette, piccole, niente di che. Roba leggera porta, ma al limite dare una mano a chi fa le cose grosse, è una mano, solo che in inverno poi come ti va, andare in bicicletta? Sì, già vanno, sì, non ti preoccupare, già vanno, già vanno, li ho visti io l'anno scorso, già con il giubbotto all'esce e quelli grossi scacciacqua, già andano, non è un problema. Io dai, ci prendiamo tutti il monopattino e andiamo a fare le gare. Sì, uscito la caglia a batterra, non saranno. In piazza dei Sedi facciamo le gare, ci ritrucchiamo. Ah, sai che li stanno anche truccando questi monopattini. Ma vai, qui ci vengono i vigili urbani a prendere. Natalino muove la bandierina per farci partire. Natalino è qua, ma no. Cosa muove? L'accetta può muovere lui. Muoviamo anche quella. Lui tira fuori l'accetta, muove con la bandierina attaccata e noi partiamo. L'accetta è tempiese, no? È in tempiese. Allora, l'accetta, capito? Pistolino. Gallurese, è gallurese. E a chi c'è più le gallure? Io lo so, anche Urbia. Beh, e cosa vuoi tu? Mi zio Gianni c'è, mi tiragli un morso alla gamba malata. E a Roma così, che me la faccio risare. Beh, già, lo sai che l'altra volta mi ha appunto.